Aveva trovato il modo per fare sparire 500.000 di euro. Poteva prendersene di più, però avrebbe dato troppo nell'occhio e non voleva stravolgere la sua vita. Voleva solo aiutarla. Ha usato proprio questa espressione: aiutare la sua vita. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Venerdì 24 settembre, sono le 16:07. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Ve l'ho raccontato ieri. Due giorni fa è venuto da me un tizio dicendo che aveva voglia di parlarmi, che non mi chiedeva niente se non qualche minuto per raccontarmi di lui. Si chiama Ettore. Ok, non si chiama davvero Ettore, però lo chiamerò Ettore perché non mi va di chiamarlo con il suo nome. E perché Ettore è un nome che gli starebbe bene. Vi ho già raccontato che siamo andati a prendere un caffè in un bar qui vicino. Vi assicuro, io questa situazione non la capivo. Ho pensato che fosse uno che voleva lavorare in radio, magari, e supponeva che io potessi mettere una buona parola per lui. Insomma, davvero non capivo perché questo tizio, che non conoscevo, che non aveva mai ascoltato un mio programma fino a qualche giorno fa, avesse tanta voglia di parlare con me. Visto che continuavo a non capirlo mentre lui mi raccontava la sua vita, a un certo punto l'ho interrotto e gliel'ho chiesto. Ho fatto in modo che la domanda non suonasse come «Ma tu cosa vuoi da me?». Però diciamo che il succo era quello lì. Lui mi ha risposto che il fatto che non mi conoscesse e il fatto che io avessi deciso di non mentire più, ai suoi occhi mi rendeva una persona a cui poter raccontare delle cose. Ettore è un avvocato. Lavora per una società di assicurazioni. Fa il risk manager. Calcola i rischi. Calcola i rischi delle società che fanno affari con i suoi assicurati. Cioè, se un suo assicurato deve fare un lavoro di 100.000 euro per una società, lui si accerta che questa società quei 100.000 euro ce li abbia. E poi ha aggiunto, insomma, alla fine faccia delle ricerche. Tutti i giorni Ettore ha a che fare con persone che devono o che pretendono del denaro. Tanto denaro. Numeri per lo più. Dietro il denaro però ci sono aziende, ci sono persone che lavorano, ci sono famiglie e tutto il resto. Spesso si trova a parlare con persone a cui deve negare il fido, cioè la copertura delle spese. Alcuni si arrabbiano, altri si deprimono, altri invece non reagiscono proprio. Ettore va in palestra due volte alla settimana. In realtà ha ripreso ad andarci appena è tornato dalle vacanze, però gli è già passata la voglia. Dice che tutti gli anni succede così. Torna dal mare e inizia dei corsi di fitness. Tempo due mesi, si è già stufato e ha trovato mille scuse buone per non andarci più. Che alla fine, no? Se non ci vai sempre, tanto vale. La scusa migliore è sempre il lavoro, che sta in ufficio fino a tardi ed è stanco morto. Dice che il suo lavoro non gli piace, però ormai dopo 15 anni non è quasi più nemmeno un problema. Fa ricerche tutto il giorno. Indaga nella storia di persone e società. Cerca di capire in che stato di salute sono, se producono, se offrono servizio, ma soprattutto se hanno soldi per pagare il suo cliente. Altrimenti, poi, a pagarlo, tocca alla sua società d'assicurazioni. Le transizioni sono molto lunghe, mi ha detto a un certo punto. Possono durare anni. Io però, sai, devo fare il bene della mia società. E sono anche abbastanza bravo a farlo. Insomma, bene o male, si arriva sempre a una soluzione. E lì ho capito che arrivare bene o male ad una soluzione significa che a volte le cose si aggiustano, a volte no. Lashes remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my. È che quando facciamo una cosa, spesso noi non consideriamo quanto sia rischiosa. E non lo facciamo, non sempre, voglio dire, perché altrimenti il più delle volte quella cosa lì non la faremo proprio. Ettore mi ha raccontato che lui era sempre scappato dalle cose che gli facevano paura, perché le cose che lo spaventavano voleva che rimanessero il più lontano possibile da lui. Poi un giorno ha deciso di provare a prenderselo, il rischio. Mi ha detto che questa cosa non l'aveva mai raccontata a nessuno. Sapete, capita a volte, no? Di sentirsi più forti, di sentirsi più belli, perfino più in gamba di quanto non si pensi abitualmente, o di quanto non lo si sia poi nella realtà. È una cosa che capita a tutti, credo. Non so da cosa sia dovuto, se è una questione di ormoni, di clima, o se è una questione puramente psicologica, però tant'è, in quei giorni abbiamo la sensazione che potremmo fare delle cose che non abbiamo mai fatto. Ecco, in uno di quei giorni io lo scorso anno ho deciso di vendere tutto. Ettore invece ha deciso di diventare ricco. Il fatto è che gli giravano in mano sempre troppi soldi e vederli svanire oppure finire in mano ad altri gli sembrava un'ingiustizia. Guardava fisso il succo di frutta alla pesca mentre me lo raccontava, come se avesse potuto fare un danno a me invece che alla sua società. Mi ha detto che era inutile che spiegasse come, però aveva trovato il modo per fare sparire 500.000 di euro. Che poteva prendersene di più, però avrebbe dato troppo nell'occhio e non voleva stravolgere la sua vita. Lui voleva solo aiutarla. Ha usato proprio questa espressione, aiutare la sua vita. E ogni tanto, osservandolo, pensavo che mi stesse raccontando un monte di fregnacce, però non capivo perché avrebbe dovuto farlo. Mi ha detto che quella mattina è andato al lavoro, ha preparato tutto e poi, prima di premere invio e portarsi a casa 500.000 euro, è uscito sul terrazzino dell'ufficio a fumarsi una sigaretta. Ecco, a questo punto del racconto a me sembrava di sentire il racconto di un thriller americano, avete presente, quello in cui c'entrano la CIA, l'FBI. Lui invece mi ha detto che quella mattina, dopo la sigaretta, è rientrato, è tornato alla sua scrivania e invece che premere quel tasto ha annullato tutto. Ha spento il computer e si è preso mezza giornata di ferie. Ora, ammesso che tutto ciò sia vero, però io ho deciso di fidarmi e quindi penso che lo sia. Ora, qual è la prima domanda che verrebbe da fare a uno che ti racconta una storia di quel tipo con un finale come quello? La domanda è: scusa, perché non l'hai fatto? E questa è effettivamente la domanda che io gli ho posto. Lui mi ha guardato e mi ha detto: sai cos'è? È che non ho avuto il coraggio. Ecco perché ti ho cercato, perché a qualcuno io dovevo raccontarlo. Dovevo liberarmi del peso di essere uno senza coraggio. L'altro giorno poi abbiamo finito di bere, lui mi ha ringraziato e poi se n'è andato, senza nemmeno chiedermi, tra l'altro, di trovargli un lavoro in radio. Quindi era vero. Cioè, era vero che lui aveva scelto me come la persona a cui raccontare una cosa che non aveva raccontato a nessuno. Perché alla fine è così. Alla fine noi viviamo le nostre giornate cercando di darci delle regole e di rispettarle. E a volte lo facciamo consapevolmente, altre volte no. Di fatto però noi ci alziamo alla stessa ora, facciamo colazione con i biscotti che preferiamo e poi andiamo al lavoro. Non è importante che lavoro sia, se è un lavoro manuale o di concetto. L'essenziale è che sia fatto bene. Poi, un giorno, ci sembra di avere più coraggio di quanto ne abbiamo davvero e ci viene in mente di provare a fare cose che non abbiamo mai fatto. È solo che a volte ci riescono e a volte no. (800) 24 0024, voi siete mai arrivati ad un passo dal fare un'azione coraggiosa e vi siete tirati indietro? 800 24 0024. (16:18), questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, ricordo a tutti quelli che scrivono ogni volta quali sono i pezzi che mandiamo, che c'è sulla pagina di Radio 24, sulla pagina chiaramente di Io Sono Qui, tutti i brani che mandiamo. In particolar modo questo pezzo, Tiziano, correggimi se sbaglio, si chiama Little Lion Man e loro sono i, non mi ricordo più quindi me lo devi dire, The Tallest Man on Air, ok, l'avevamo già mandato credo anche l'anno scorso. Little Lion Man, Radio 24, 16:19, questa storia di Ettore, che lasciamo stare il fatto che è venuto a cercarmi sotto la radio e che per certi versi un po' mi ha preoccupato quando mi sono trovato sto tizio che mi diceva: hai voglia di fare quattro chiacchiere? Questa storia qua mi ha fatto riflettere proprio sulla questione del coraggio, no? Sul fatto che ci capita di caricarci come delle molle ogni tanto e di metterci dei mesi o dei giorni, degli anni delle volte anche, per cercare di passare una soglia che non abbiamo mai pensato di passare. Ci arriviamo, siamo quasi pronti e poi un attimo prima manca quella roba lì, manca proprio il coraggio. 800 24 0024, 349 238 6666. Tra l'altro, l'altro giorno, parlando di questa storia, raccontando a Tiziano e a Vittoria di questo tizio che era venuto sotto la radio, non so se Tiziano o Vittoria mi hanno raccontato di questo trader, una storia simile più o meno, solo molto più clamorosa, che francese, che si chiama Jérôme Kerviel, credo, giusto, in francese, ed era un trader che nel 2008, quindi 2 anni fa, aveva fatto sparire qualcosa tipo 5 miliardi di euro alla banca francese per cui lavorava, che era la Société Générale. Non ho capito però se questo se li ha portati a casa oppure li ha semplicemente fatti sparire o... non si è capito bene, però di fatto anche questo tizio qua aveva avuto il suo coraggio. Avevo letto un pezzo che diceva che non sarà... Ah certo, perché questo era una sorta di signor nessuno, no? Era un tizio più o meno sconosciuto. Poi tra l'altro è del 77, quindi nel 2008 aveva 31 anni appena. Ed era stato un casino per la banca francese spiegare che cosa era successo, come questa sorta di signor nessuno era riuscito a eludere i sistemi finanziari, i sistemi informatici, per avere accesso a 5 miliardi di euro. Ettore mi ha parlato di 500.000 euro, non lo so, magari non è vero, magari erano di meno o magari erano di più, e lui non ha nemmeno voluto spiegarmi come c'era arrivato. Non è questa la questione è che lui è uscito sul terrazzino, si è fumato una sigaretta e ha deciso di non farlo. È quella proprio a che fare con la mancanza di coraggio. 80024 0024 349 238 6666. Anche Angelo mi scrive: tutte le volte che voglio provarci con una ragazza rinuncio all'ultimo secondo. Ecco, quella è una roba simile. Addirittura B, certo, in questo caso poi in realtà è stato un bene, come suggerisce Tiziano, che non abbia portato a casa 500.000 euro. Dipende dai punti di vista però, no? Cioè, magari sua moglie non è così d'accordo. Sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, oggi proprio chiedevo se era mai capitato a qualcuno, no, di decidere di fare una cosa e tirarsi indietro un momento prima per mancanza di coraggio. Emiliano mi scrive: purtroppo non mi capita quasi mai, è per questo che ho preso delle grandi botte. Però più che di coraggio parlare di follia. Andrea mi scrive: ho presente, sì, 6 anni fa ho avuto l'opportunità di andare a studiare a Parma e cambiare la mia vita con accanto quella che allora era un'amica, poi diventata con il tempo quella che era Beatrice per Dante. Bella. Poi la pigrizia, il poco coraggio e la scelta d'università vicino a casa mia, non sono partito. Adesso lei sta con un altro, vabbè Andrea, e la storia la possiamo immaginare. Però poi mi è arrivato un messaggio che era interessante anche semplicemente per il suo... per gli sviluppi che avrebbe portato. Luisa: concorso per ufficiale in aeronautica. Ricordo, Luisa, concorso per ufficiale in aeronautica, primo anno aperto alle donne. Superati i primi 2 giorni di test, ero in cima alla lista, mancavano solo le prove di idoneità fisica. Io ero stata campionessa regionale proprio in quello sport, che era l'atletica leggera. L'idea della vita militare però mi ha fatto tremare le gambe e me la sono data a gambe, appunto, cioè non mi sono presentata. Però quella è stata l'unica volta. Pronto Luisa? Pronto Matteo. Ciao, come stai? Ciao, bene, tu? Io bene, però per stare meglio avrei bisogno di capire com'è andata esattamente questa storia, Luisa. Allora, questa storia è successa più o meno 11 anni fa ed era il primo e anche unico concorso della mia vita. E niente, feci questa domanda al concorso per ufficiale in aeronautica e superai subito i test di ammissione, quindi qui ci sono tantissime persone, si fa la prima grossa selezione. E per cui ecco, rimanemmo a partecipare come donne circa 40 ragazze. Su quante, scusami, partecipanti totali? Tali uomini e donne non ricordo, erano, sai, questi auloni immensi dei concorsi, centinaia, diciamo. Okay, come okay. Donne saranno forse il centro, per cui diciamo, alla fine rimanevo in 40 a svolgere le prove, tutte le altre prove che si svolgevano nell'arco di 3 giorni. Ecco Luisa, prima tu mi dicevi, prima quando ci siamo sentiti al telefono, che di fatto era una sorta di concorso già per laureati, perché tu eri già laureata in ingegneria aeronautica, quindi non è che eri una novizia. No. Ok, quindi arriviamo ai test di idoneità fisica. No, arrivo al test di idoneità fisica, io praticamente a quel punto avevo capito che c'erano buone possibilità di vincere, perché in pratica tutti i test che avevo fatto, quelli tecnici e attitudinali, erano andati molto bene. Eravamo circa una quarantina e l'ultimo giorno avrei dovuto fare questa prova di corsa, nella quale ero anche brava, perché appunto anni prima ero stata campionessa e continuavo poi a correre. Però diciamo che la paura mi viene veramente quando questo penultimo giorno di prove ci fecero una visita medica a tutte queste partecipanti al concorso, e sorpresa, più del 2/3 delle partecipanti venne in quel momento escluso dal concorso per mancanza di alcuni requisiti fisici. Sì. Ma tipo, scusami, ad esempio? Tipo l'altezza, perché la metà delle ragazze venne esclusa perché non era alta meno di 1,60 m. Ma scusami, per fare il tecnico aeronautico, l'ingegnere aeronautico? Esatto, sì, nessuno se lo aspettava, e non solo, ma le altre vennero escluse perché il rapporto altezza-peso non rientrava in un certo limite. Insomma, alla fine rimanemmo di 10. Ah, quindi tu ce l'avevi fatta a superarla sta prova, però? Io questa sì, ecco. Quindi eri lì, scusa Luisa, eri veramente a tanto così? Eh sì, eravamo meno di 10, di questi 10 praticamente 9 erano ingegneri meccanici, l'unica aeronautica, per un corpo diciamo aeronautico. A quel punto mancava soltanto la prova di corsa. E tu sei scappata. E senti, fammi capire però, qual è stato il momento in cui tu hai capito che di fatto ti mancava il coraggio per fare quella cosa lì? No, l'ho capito perché quando ho visto che erano rimaste così poche, ottime possibilità di riuscire a vincere il concorso, io in realtà ho chiesto agli ufficiali che erano lì, che stavano facendo il concorso, quale sarebbe stata la destinazione del futuro vincitore. In realtà avrei potuto farla prima questa domanda, ma non ci avevo pensato. Scusa, però t'ho perso, hai chiesto quale sarebbe stata? La destinazione. La destinazione, ok. E la destinazione era? Era Piemonte oppure Sicilia per 4 anni minimo. Io ero appena trasferita dalla Brindisi, dove stavo lavorando, a Roma, dove avevo il mio fidanzato praticamente. Senti, invece Luisa, dimmi adesso che cosa fai nella vita? E adesso lavoro per una società di software. Praticamente programmi per l'elaborazione dei dati da satelliti. Ok, direi una roba abbastanza diversa. Tu hai fatto una famiglia, c'hai dei figli? Sì, sono sposata. E quindi c'è qualcosa che rimpiangi di quel passo che non hai fatto per mancanza di coraggio oppure no? Guarda, ho nostalgia di fare i calcoli sulle fusoliere, queste cose. Perché guarda, che nostalgia, non dirlo a me, guarda. Se potessi tutti i giorni fare calcoli. Senti, dove ti trovi in questo momento, Luisa? Cos'hai intorno a te? In questo momento sono sulla Flaminia, sto tornando verso casa e Roma Nord. Roma Nord. Luisa, grazie mille e grazie anche per averci raccontato di questa mancanza di coraggio. Buona giornata. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Ciao. Adesso la borsa e subito dopo Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. La foto è quella di un comodino. È un comodino con una abat-jour piccola, accesa. Quindi probabilmente è sera. Ed è pieno di libri. Ce ne sono alcuni appoggiati al muro, impilati in ordine. Oddio, non proprio un grandissimo ordine per dire la verità. Alcuni in piede e altri sono sdraiati. In cima a quelli sdraiati c'è un calendario, di quelli da scrivania direi, che si girano attorno ad una spirale in metallo. E davanti a questi ci sono una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, direi naturale, sì, è azzurra. E poi ci sono degli altri libri invece, che sono quelli che probabilmente la persona che ha scattato la foto sta leggendo. Allora, vediamo un po', i titoli dei libri non sono così facilmente leggibili perché sono lontani, però abbiamo Molti Adelfi, quindi è roba bella pesa. C'è un libro che si chiama The Art Book, un libro Mondadori, credo sia una roba divulgativa sull'arte, però sono quei libri più che altro che non è che ti compri, tipo che te li regalano. Di solito ti regalano i libri così non quando ti occupi ad esempio di arte in questo caso, ma quando hai un vago interesse per l'arte, allora pigliano il primo libro paracommerciale e te lo regalano. Ah no, di uno si legge invece il titolo nella fila di libri quelli aperti, che sono probabilmente quelli che stanno che lei sta leggendo. C'è a sinistra un libro fotografico, perché è grande, e c'è scritto Richard Avedon, e il resto non riesco a leggerlo. Però è un libro di fotografie comunque. Poi ci sono due libri aperti praticamente. C'è un libro che è aperto ed è tenuto aperto con il segno da un altro libro. Quindi sono letture incrociate. Ah, e c'è anche una fotografia dietro. È una fotografia in cui c'è una persona al mare, sugli scogli. Ed è proprio lì in bella vista, come a volerla vedere. Ci sono qualche anello, immagino. Anelli, orecchini e una collana. Roba che ci si toglie la sera, è una donna evidentemente, roba che si toglie la sera prima di andare a dormire. È qualcuno che legge tanto, soprattutto di sera. La didascalia dice così: questo è il comodino della camera da letto e qualche libro. Sono Maria, io sono qui. 800240024 349-238-6666. Si parla di coraggio, si parla soprattutto della mancanza di coraggio. Sul profilo Facebook è arrivato anche questo messaggio. Loredana: sì, io non ho avuto il coraggio, stavo per partire da sola per l'Australia, ma mi è mancato. Lasciavo per poco tempo famiglia, marito a casa e non me la sono sentita. 800240024. Andiamo subito a Udine da Marco. Pronto Marco? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, bene, certo. Hai fatto un sospiro però prima, eh? Sì, perché sto pensando ancora alle opportunità che ho mancato. Raccontamela allora l'opportunità. Beh, io sono un appassionato di vela, ho vissuto all'estero per un periodo di tempo e ho conosciuto È un mito, Soldini. Arrivando dalla Transat a Rio de Janeiro, l'ho conosciuto e niente, mi sono mantenuto un po' in contatto con lui. Sì. Il mio sogno è sempre stato fare la traversata dell'Atlantico da, diciamo, dalle Americhe all'Europa. Niente, stiamo parlando, scusa, di attraversata dell'Atlantico, per chi non lo sapesse, quanto ci si mette a fare una traversata in barca a vela? Quanto ci si mette? Quanto tempo ci si impiega? Dipende, guarda, controvento dalle 2 alle 3 settimane. Però perché questo è un altro dettaglio, giusto? Che se vai dall'Europa agli Stati Uniti ci sono i venti a favore, se invece vai dagli Stati Uniti all'Europa no, giusto? Dipendendo dal periodo, perché gli Alisei soffrono, diciamo, da novembre in poi, okay. Da gennaio in poi agli altri per tornare su. Quindi tu, Marco, ti eri preparato per questa roba? Sì, psicologicamente, fisicamente, tutto quanto, ero lanciato. Poi il periodo economico non era dei migliori e niente, non ho avuto il coraggio di domandare al mio datore di lavoro le 4 settimane, che ci vogliono 4 settimane alla fine per fare tutto quanto, per realizzare un sogno, ma cioè, scusami, la famiglia, Marco, il mutuo. Marco, scusami, questa cosa fa abbastanza ridere però, cioè tu non hai avuto il coraggio di attraversare l'Atlantico non perché avevi paura di affondare in mezzo all'Oceano Atlantico, ma perché avevi paura di perdere il lavoro per il tempo che chiedevi a disposizione. Senti, tu quanti anni hai, Marco? Sono quasi 40. E che cosa fai nella vita? Bah, io sono responsabile commerciale. C'è sempre questo sospiro prima delle risposte. Marco, no, che succede? Quando uno che fa il mio lavoro domani cosa fa, di solito si riempiono la bocca di parole altisonanti, termini inglesi e tutto quanto. A me dire cosa faccio ogni tanto anche dà un po' fastidio. Perché dimmi il termine inglese che è altisonante, Marco. Sarebbe export manager. Export manager. Quanto porta a casa un export manager al mese? Dipende dove lavori. Io non mi lamento. Vabbè, più di 5.000? No, meno. Meno? Più di 4? Ci siamo. Ci siamo. Siamo tra i 4 e 5. Marco, grazie mille. Buona giornata. Ciao. Ciao, alla prossima. Stiamo a Udine. Oggi solo friulani. Angelo. Sì. Ciao, come stai? Bene, ti invidio molto. Perché mi invidi molto, Angelo? Perché tu ti sei lanciato col paracadute e io no. Quindi è questa la mancanza di coraggio? È questa, sì. Com'è andata? È andata così. Allora, la bellezza di 34 anni fa, io avevo 16 anni, adesso sono 50, quindi a 16 anni, ho fatto un corso di paracadutismo assieme a un amico, un compagno di scuola. In quel corso era contenuto tutto lo slancio verso la libertà, era una delle poche cose che si poteva fare senza l'autorizzazione dei genitori. A 16 anni si poteva fare senza di un desiderio, era al massimo, insomma. Scusami Angelo, fammi capire, a 16 anni si poteva fare lanciarsi col paracadute senza la firma dei genitori? Senza firma dei genitori, sì. Ok, si può fare, credo che si possa fare anche ancora oggi. Quanti giorni ha preso questo corso per paracadutisti? Beh, il corso in realtà è organizzato con delle serate, dei fine settimana, così diciamo 3 settimane scarse. Quindi tutta teoria? No, abbiamo fatto anche delle esercitazioni in palestra, ipotesi di lancio. Ipotesi di lancio non è, ma com'è l'ipotesi di lancio, scusami? Ci buttiamo, mettiamo che ci buttiamo e poi così? No. È la stessa, se ti è mai capitato di vedere, che fanno i paracadutisti militari, cioè c'è una torre alta, poi c'è una fune, tu ti devi lanciare con una carrucola agganciata a questa fune. Ah, ok, quindi insomma anche roba pratica. E poi cosa è successo, Angelo? Guarda, è successa una cosa stranissima. Siccome a quel tempo gli unici lanci che si potevano fare per autorizzazione, che erano 3 lanci per avere il brevetto, si potevano fare unicamente da aerei militari. Sì. E si doveva diciamo sottostare a una ricerca che i militari facevano su di te per capire i tuoi trascorsi, per capire se potevano prenderti a bordo di un aereo militare. Erano gli anni 70, quindi ti puoi immaginare. Ok. Bene, è successo che io ho avuto il nulla osta sicurezza e il mio compagno no. E quindi perché saresti dovuto andare da solo? Quello che sono venuto a sapere dopo, il papà aveva militato nel Partito Comunista, non so per qualche ragione strana, lui aveva detto di no. Ok, aveva un parente cubano magari. Quindi tu dovevi stare da solo su quell'aereo e lanciarti da solo? No, non ero da solo, ero naturalmente... Vabbè, senza il tuo amico però. In quel momento è scattato qualche cosa che mi ha detto, come? Io l'ho fatto con lui, voi non lo citate lui, allora non avrete nemmeno me. Però... E ho deciso di... Però scusami, di stare dalla sua parte. Però a distanza di anni, mi sembra di capire, Angelo, bravo, che tu più che... Hai capito tutto. Eh sì, cioè era stata una bella scusa. Anche secondo me. Okay. Ma comunque, la cosa interessante è che non è cominciata subito, piano piano è montato, è venuta fuori questa cosa. Guarda, comunque, uno te lo dice, uno che si è buttato ed è svenuto, tutto sommato anche io mi ricordo poco, quindi alla fine non so chi ha avuto ragione, se tu o io. Grazie mille Angelo, buona giornata. In bocca al lupo. Ciao, alla prossima, crepi, speriamo. Andiamo a Roma da Emanuele. Pronto Emanuele? Ciao Marco. Ciao Matteo. Allora, scusami, questa è una battuta o sei lo stesso che mi ha chiamato l'anno scorso? No, mi ero distratto, pensavo un amico, tra Marco e Matteo mi sono sbagliato. Dove sei Emanuele? In macchina? In macchina. Dove stai andando? Da dove vieni? Sto tornando a casa, sono all'università, quindi... Ma tu insegni o sei studente? No, adesso lavoro e adesso sono studente. Cioè, e che lavoro fai e cosa studi allora? Infermiere e studio bioetica. Ah, ok. Che ha a che fare? Certo, ha a che fare, la stessa roba. Più o meno. Ma ti servi, ma ti servirà per il tuo mestiere oppure vuoi cambiare mestiere? No, serve sempre il mio mestiere, perché poi io mi occupo di cure palliative, quindi la bioetica è il pane quotidiano. Okay. Più intenso che in un ambulatorio, ovviamente. Immagino. Quindi, magari se mi porta qualcosa in tasca. Senti, ma sei sul grande sei sul grande raccordo anulare in questo momento? No, l'ho lasciato. Che meraviglia, io adoro il grande raccordo anulare, ma soprattutto adoro il fatto che a Milano si chiama tangenziale e a Roma invece è il grande raccordo anulare. Non è solo il raccordo anulare, perché è il grande. Abbiamo l'altro tangenziale, scusa. No, ma poi a Roma tutto è grande, dai. A Roma tutto è immenso. Vabbè, ma veniamo al dunque, Emanuele, altrimenti non possiamo parlare per mezz'ora di raccordo anulare. Dimmi che cosa volevi fare e ci eri arrivato quasi, allora, e poi non hai avuto il coraggio. Qualche anno fa, sempre grazie al lavoro, sì, avevo la possibilità di coronare un mio sogno, che era quello di fare un programma, di entrare in televisione, sì, con una striscetta, con un piccolo format all'interno di una rete nazionale. Ah, che radio, che TV era, scusami Emanuele? Dai, non me lo far dire. Ma dai, te la dico io, la Rai? Era Mediaset? Era la 7? No, la Rai. Sky? Ah, la Rai, perfetto, ok. Ma si può dire, cioè non è che... Quindi potevi fare una striscia parlando, immagino, di... Sì, 10 minuti, parlando di cure palliative. Di salute, ok, perfetto. E non l'hai fatto? No, non ci ho avuto mai il coraggio, perché quando... Cioè, dovevo fare una telefonata per contattare il responsabile degli autori. Sì. Per finire di scrivere le cose, insomma, di puntualizzare... E non l'ho mai fatto. Ma e perché non l'hai fatto, scusami? Il primo motivo era che avrei dovuto, se avessi poi mi davano l'ok, dovevo litigare con mia moglie perché era d'estate. Ovviamente gli inserimenti li fanno, no? Nel periodo più vuoto c'erano le ferie incombenti, avrei dovuto, certo, litigare con mia moglie. E quindi alla fine... Ma in realtà è che avevo paura. Ok, però alla fine, Emanuele, invece che far diventare un grosso personaggio, magari di Uno Mattina Estate, direi Uno, sei andato a fare le ferie a Bibbione. Dove sei stato a fare le ferie poi? No, ma che ferie a Bibbione? Sono andato o ad Anzio... Oppure in campeggio... Campeggio no, perché... Lo odi, va bene. La prossima volta Gatteo Mare. Grazie mille Emanuele, buona giornata. Ciao, alla prossima. 349-238-6666. Io presto dovrò farne una. Sono vittima di una truffa e il sistema non mi aiuta. Ho seguito tutte le vie legali. Ora dovrò trovare le altre. Non vedo l'ora. Ciao. Occhio, perché abbiamo il tuo numero. Sono le 16:44 minuti, oggi è venerdì e finisce la settimana. Io quest'oggi ho confessato uno sconosciuto, ho cercato di recuperare un po' di coraggio, ho fatto una spesa, ho quasi deciso di prendermi una casa tutta per me, finalmente. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?